La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, il nostro appuntamento, l'ora settimanale di cinema qui su Radio 24. Io sono Franco D'Assisi, staremo insieme per tutta la prossima ora per parlare di cinema. E allora, un cinema che si rimette in movimento, seppure lentamente, dopo Ferragosto, un cinema che sta per affrontare la prossima settimana con 12 nuovi film in sala, davvero un diluvio di pellicole nuove, anche molto importanti, e che qualcosa comincia pur ad anticipare, per evitare poi di avere un sovraffollamento che comunque inevitabilmente ci sarà. Questo è un po' il senso di questa puntata, raccontarvi qualcosa di queste novità, chiudere le nostre visite sui set estivi dei film italiani con Chiara Pizzimenti, chiudere la nostra carrellata sui film migliori della stagione 2009-2010 e poi, come sempre, raccontarvi tutte le novità in un video. E allora cominciamo subito a riepilogare i contenuti della trasmissione nei nostri titoli di testa. Da piccolo episodio del capolavoro disneyano Fantasia, celebre per la danza delle scope, a film pieno di roboanti effetti speciali. È L'apprendista stregone con Nicolas Cage e Jay Baruchel. Reduce dal Festival di Locarno, arriva nelle sale italiane Pietro, il nuovo film di Daniele Gaglianone. Una storia di giovani e di speranze tradite. Ne parliamo con il regista. Si chiude con il meglio del cinema italiano la carrellata sui film che hanno contrassegnato la stagione cinematografica appena conclusa. Rivisitiamo Mine Vaganti, Io sono l'amore e Basilicata Coast to Coast. Prosegue il nostro viaggio sui set dei film italiani della prossima stagione. Oggi Chiara Pizzimenti ci svela Notizie dagli scavi, il nuovo film di Emidio Greco, tratto dal racconto di Franco Lucentini. Nel cast Beppe Battistone e Iaia Forte. E allora, menù ricco anche in questa puntata della Rosa Purpurea. Noi cominciamo subito con le novità. Ricorderete tutti, o insomma molti di voi, La danza delle scope di Fantasia, il fantastico capolavoro disneyano dell'inizio degli anni 40. A un certo punto le scope si animavano e ballavano con Topolino. Chi non ricorda quel frammento, quell'episodio di quello straordinario film fatto di animazione artigianale ma ancora magica oggi, dopo tanti anni, e di grandissima musica? Ebbene, quell'episodio ha preso vita propria, è diventato un film, è un film ovviamente targato Disney, che si intitola appunto L'apprendista stregone. Nel cast una grande nome di Hollywood come Nicolas Cage e un giovane tutto da scoprire come Jay Baruchel. Ci racconta tutto Barbara Righini. Quello che hai appena fatto è impossibile. È da molto tempo che ti stavo cercando. Diventerai una forza del bene e uno stregone molto importante. Ma per ora sei il mio apprendista. Sono il tuo cosa? Dave non può credere ai suoi occhi. Nel nuovo millennio ha davanti a sé un uomo che potrebbe essere un illusionista, ma ha tutta l'aria di essere un vero stregone. Baltasar, capello lungo e palandrana in pelle, fuori moda da centinaia di anni, sa creare cerchi d'energia, scatenare le forze della natura, compiere trasformazioni. Come può Dave, un uomo di scienza, accettare che la magia esista? Eppure l'ha davanti agli occhi. Dopo l'iniziale tentazione di fuggire, Dave accetta di imparare i segreti di Baltasar e soprattutto di aiutarlo a salvare il mondo da una minaccia incombente. Un altro potente stregone, Maxim, un tempo alleato di Baltasar, si è votato al male ed è pronto a risvegliare la strega Morgana, acerrima nemica di Merlino. Se entri, lascerai tutto ciò che possiedi. Una volta dentro, non potrai più tornare indietro. Siamo dalle parti di Harry Potter e Percy Jackson, le forze del male contro quelle del bene, teatro dell'azione, New York, da Battery Park alla NYU a Wall Street. Niente di nuovo sotto il sole, nessun scatto in avanti, impianto classico con un pizzico di romanticismo, azione ed ironia. Una miscela che piacerà di certo ai più piccoli. L'apprendista stregone, targato Disney, è disseminato di citazioni. Sentiamo Jay Baruchel che interpreta Dave. Ho sempre avuto una fiducia esagerata, ma l'unica cosa che mi ha intimidito è la sequenza della scopa, perché citavo alla lettera e rendevo omaggio a una delle sequenze più classiche e iconiche della storia del cinema. Quindi ha un significato proprio culturale. Un passo falso e l'avrei rovinata. Sarò inevitabilmente paragonato a Topolino. E come fai a uscirne incolume? Ho potuto solo fare del mio meglio. L'ho affrontata con questa forma di reverenza quasi religiosa. Idealmente cerco di ritagliarmi dei piccoli momenti senza sciupare niente. Ma nei 5 giorni in cui abbiamo girato quella scena, ero piuttosto stressato. E per Nicolas Cage, che dà il volto allo stregone Baltasar, è stato un grande onore collaborare con la casa di Topolino. È un grandissimo onore essere coinvolti in qualsiasi film della Disney, perché Walt Disney è un gigante e un eroe dell'immaginazione. Potrei anche dire che sono di Disneyland, letteralmente, perché vivo in California e andavo a Disneyland. Ed era lì che ero stimolato ad avere i miei pensieri migliori. Dunque lui ha avuto un impatto enorme su tutta la mia vita. E Barbara Righini ci ha raccontato L'apprendista stregone. Noi saltiamo invece al secondo film, alla seconda novità di quelle che vogliamo proporvi in questa puntata della Rosa Purpurea. È una commedia romantica per ricominciare la stagione. Love Happens, il titolo originale. In Italia esce con il titolo di Qualcosa di speciale. Adesso vedremo se si tratta davvero di qualcosa di speciale. Certo, il cast lo è per un certo tipo e una certa generazione di pubblico. Aaron Eckhart, Jennifer Aniston, che ovviamente si incontrano, inevitabilmente si innamorano. Noi sentiamo subito dal trailer il momento dei primi incontri, dei primi passi di questa coppia, e poi tireremo in ballo il nostro Boris Sollazzo. Oh, scusi, Dio. Le va di prendere un caffè insieme? Non sono mai uscita con un uomo che avesse la sagoma di cartone di se stesso. Fa comodo in auto per non viaggiare soli. Da quanto tempo lo fai? No, un paio d'anni fa ho finalmente trovato il coraggio di aprire un negozio mio. Posso farti notare che frequenti un uomo che rimarrà in città meno di 72 ore? Mi piace. Mi sto ancora cervellando per capire cos'è che ti interessa. È una lunga storia. Sì, ma non è che quello che ti interessa è parlarne. Grazie per il drink. Sì. Grazie. Allora, già dalla musica che si usa nel trailer che si capisce che l'indice glicemico di questo film rischia di essere troppo alto. Boris, buongiorno. Tra l'altro sono divenuto malato di diabete da quel giorno, insomma, dal giorno della proiezione stampa, perché davvero il tasso glicemico è molto più alto di quello che puoi capire dal trailer, caro Franco. Ma insomma, questi Aaron Eckhart e Jennifer Aniston fanno locandina senza dubbio, fanno anche cinema? Guarda, loro sono un po' di tempo che rischiano di fare più locandina che cinema, perché sono due attori di sicuro talento, di sicura avvenenza, che però non ne spiegano molto, non devono avere agenti molto bravi o una grande capacità di leggere le sceneggiature. In questo caso ci troviamo di fronte a un polpettone, un coso abbastanza improbabile su un uomo, un vedovo, che decide di sfruttare il suo lutto a tutti gli effetti, insomma, perché perde la moglie in un incidente, di cui poi conosceremo i particolari lungo il film, e decide di scrivere, come spesso si fa in America, un libro su come superare il lutto in 365 giorni o giù di lì. Dall'altra parte c'è Jennifer Aniston, una fioraia molto avvenente, che arriva nella sua vita e guarda un po', gli fa capire che lui questo lutto non l'ha davvero mai superato, e questo ci riempie di sorpresa perché non l'avremmo mai capito da soli. E da qui parte questa storia d'amore che è davvero più improbabile non si potrebbe, anche perché, a dispetto di quello che si potrebbe pensare esteticamente, la chimica proprio fisica c'è ben poco tra i due. E quindi insomma un film che, come dire, impalla i personaggi, cioè non li fa procedere. E allora questo è il motivo per cui, mi pare di capire, non aspettarsi qualcosa di speciale dal film Qualcosa di speciale. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento nelle prossime puntate della Rosa Purpurea. Ciao, a presto. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la seconda parte del nostro programma. Continuiamo a parlare di novità in sala in questo weekend che cerca di riprendere pian pianino un flusso cinematografico per quella che ormai l'imminente rientro dalle vacanze di molti italiani. E c'è una produzione italiana della quale vogliamo parlare in questa seconda parte, quella che porta la firma di Daniele Gaglianone, che è in collegamento con noi. Ciao Daniele. Ciao ciao a tutti. Ciao, allora, il tuo film si intitola Pietro, è un nome, un destino potremmo dire, perché è una storia di fratellanza un po' strappata, lacerata, è una storia di amarezze, che così, da chito, quando uno legge una scheda, legge una trama, fa venire in mente, almeno a me ha fatto venire in mente immediatamente, una storia dei fratelli Dardenne, non so perché, ma me la sono vista così, un po' in quel modo di cercare di rubare l'anima dei personaggi e di rivoltarla un po' per mostrarla al pubblico. Com'è nata questa storia? Raccontala un po' al nostro pubblico. Allora, beh, il riferimento ai fratelli Dardenne è del tutto lecito, anche se poi il film, per fortuna, ha una sua strada personale. Il film è nato dall'osservazione di alcune realtà che mi sono trovato, in cui mi sono imbattuto, insomma. E il personaggio principale me l'hanno direttamente ispirato alcune persone che ho conosciuto, persone fragili che sono abbastanza invisibili nella nostra società, ma che sono invece presenti e sempre più numerose, queste persone che vivono, come dire, che scivolano lentamente verso uno stato sociale sempre più precario, e questo ha una ricaduta sulla loro vita, sulla loro dimensione anche esistenziale, sulla dimensione dei rapporti umani, e quindi quando tutto diventa incerto anche il rapporto appunto con l'altro. Ecco, Daniele, Pietro, hai detto, è un personaggio fragile, ma anche un personaggio onesto, un valore, come diciamo, magari abbastanza in disuso negli ultimi tempi, ma ecco, lui lo è, cerca di arrangiarsi con quel poco che ha in questa casa che sembra un porto di mare, con questo fratello con problemi di tossicodipendenza, con gli amici del fratello che sono peggio di lui. Ecco, è un film disperato in questo senso, cioè un film che racconta come oggi chi vuol provare a farcela con le sue forze e con i suoi valori è destinato a soccombere? Ma no, ecco, non ha sicuramente la pretesa di registrare in modo assoluto chissà quale tendenza. È una piccola storia ispirata a mille fatti che possiamo trovare anche in mezza colonna nei nostri giornali, no? Tutti i giorni, fatti anche molto violenti. Lui è una persona semplice, più che onesta, una persona che, ripeto, fragile, tenera, gentile, che sembra non trovare spazio in un mondo che è tendenzialmente sempre più feroce, no? E quindi io credo che lui a un certo punto comunque reagisca a questo stato, e comunque quando c'è una reazione qualcosa di positivo c'è sempre, anche se lui reagisce, come dire, restituendo in qualche modo la violenza che subisce quotidianamente. Sì, ecco, penso che sicuramente è un film, come dire, molto duro. Credo che la durezza sia anche mitigata appunto dalla gentilezza di questo personaggio, da cui forse non ci si aspetta poi una reazione di un certo tipo. Certo. Senti, girato a Torino, girato con un budget, inutile dirlo, abbastanza risicato, nel senso, inutile dirlo perché ormai l'80% del cinema italiano si fa così o non si fa. Però la cosa interessante, Daniele, è che adesso si fa, mentre quando tu hai cominciato, che non è tantissimo tempo fa, ma insomma, ormai è anche un'altra epoca storica per il cinema, se vogliamo, ancora si era lontani dalla leggerezza, per esempio, che ti permettono le camere digitali, eccetera, quindi un budget era sempre un budget. Adesso certi progetti si riescono a mettere insieme, no? Cioè, mi sembra che in questo forse oggi, benché poi i problemi sulla distribuzione siano enormi, però il fare cinema sia un po' più possibile di 15 anni fa. Ma dunque, da un punto di vista dell'opportunità che ti offre la tecnologia, sicuramente. Poi io credo che la cosa fondamentale sia, come sempre, come 15 anni fa, come ancora prime come sarà, è la forza coesiva di un progetto, la forza di un progetto che riesca a condensare su di sé delle energie, di persone, guarda, il problema vero è che sì, queste cose si continueranno a fare. Rispetto a 15 anni fa c'è molta più difficoltà però a farle vivere nel circuito tradizionale. Assolutamente, infatti parlavo proprio di enormi problemi di distribuzione, perché poi c'è tutta una parte di sale cinematografiche che si sta sgretolando sotto i nostri occhi, che erano proprio le sale deputate a questo tipo di cinema, no? Purtroppo sì, e ti dico, ripeto, anche questo film... come dire, abbiamo trovato una distribuzione, siamo contenti, però certo, forse probabilmente un po' di anni fa ci saremmo mossi con un po' più di agio, ecco, no? Perché la situazione era sicuramente, c'erano ancora più spazi per questo, certo, tipo di cinema. Certo. Adesso bisogna veramente conquistarselo. Assolutamente. Daniele, per chiudere la nostra chiacchierata, invitiamo la gente a vedere, appunto, ad andare a vedere Pietro nelle città dove il film è in programmazione. Ti voglio chiedere giusto un'ultima cosa, sì, sugli attori. Cioè, hai scelto attori non conosciuti, molto giovani, come li hai selezionati, come ci hai lavorato anche qui, anche grazie alla vicinanza che ti permettono le nuove tecnologie? Guarda, gli attori del film sono attori che conosco da molti anni, perché alcuni di loro avevano già lavorato con me nei film precedenti, e devo dire che questo progetto è nato con loro, e forse senza di loro non avrebbe assunto questa dimensione, insomma. Quindi diciamo che il rapporto con gli attori è stato un rapporto molto intenso. Loro sono attori comici, sono attori di cabaret, però spesso gli attori comici hanno anche un grande talento drammatico. E in questo caso devo dire che sia Pietro Casella che Francesco Lattarulo, che Fabrizio Nicastro mi hanno consentito veramente di lavorare con molta, molta scioltezza, ed ero molto, molto sicuro di loro. Grazie allora a Daniele Gaglianone, ricordiamo Pietro nei cinema italiani, in bocca al lupo per questo film. Grazie, grazie a voi. E con Daniele Gaglianone noi chiudiamo la parte dedicata alle novità di questo fine settimana. Ne usciranno molti, molti di più la prossima settimana, di film sarà davvero un vero e proprio diluvio. E chiudiamo invece il cerchio su una rubrica che ci ha tenuto compagnia in questa versione agostana della Rosa Purpurea, ovvero i nostri set d'estate, le visite sui set del cinema italiano del prossimo autunno. E oggi chiudiamo il giro con un film che si intitola Notizia dagli scavi, è andata sul set per noi Chiara Pizzimenti. Il professore viene chiamato ironicamente così il protagonista di Notizie degli scavi, uno dei tre racconti che Franco Lucentini scrisse prima di formare la celebre coppia letteraria con Carlo Fruttero. È un 45enne dall'aspetto insignificante che sembra chiuso nei suoi pensieri, lontano dalla realtà. È il tuttofare di una casa d'appuntamenti a Roma. La sua vita cambia quando approfondisce la conoscenza con Marchesa, una prostituta che ha tentato il suicidio per amore. Da tempo Emidio Greco, già regista di Una storia semplice, ultimo romanzo di Sciascia con Gian Maria Volonté, voleva girare questa storia. Il racconto uscì nel 64 e si svolge naturalmente, diciamo, agli inizi degli anni 60, ma io ho notato, cioè ho creduto meglio ancora, che fosse per l'appunto di straordinaria attualità e che reggesse a una ambientazione oggi, a una storizzazione, e ho provato con piccoli cambiamenti dovuti unicamente così a contingenze, quindi legate più a oggetti, all'uso di certi oggetti, che non alla sostanza del racconto. Ho creduto appunto che questa attualizzazione fosse possibile e l'ho ambientato oggi. Nei panni del professore Giuseppe Battiston, Pane tulipani, Cosa voglio di più di Soldini, La giusta distanza di Mazzacurati, in quelli della prostituta Ambra Angiolini, così il regista spiega come li ha scelti. che Battiston fosse un grande attore lo si sapeva. Devo dire, poi dopo si vedrà, insomma, che in questo film è pazzesco. Interpreta un ruolo che non ha mai interpretato, è un protagonista assoluto dall'inizio alla fine del film, era un personaggio totalmente da inventare e lui l'ha inventato, è fantastico. E Ambrangiolini mi sembrava che avesse due componenti che andavano perfettamente per il personaggio, cioè da una parte nel suo volto una sorta di naturale malinconia e dall'altra una naturale ironia proprio. Oltre ad averla immaginata come sic di role, come capacità, è bravissima ed è di un professionismo sorprendente. Protagonista assoluta è però Villa Adriana, la maestosa costruzione voluta dall'imperatore Adriano a Tivoli. Il professore la visita nell'attesa delle ragazze impegnate con alcuni clienti. La meraviglia e il mistero dei ruderi risveglieranno la sua coscienza. Ancora Emidio Greco. Il racconto gira intorno al mistero di Villa Adriana, nel senso che questi siti archeologici, per quanto siano stati studiati, va bene, alla fine sono ancora di difficile identificazione. L'ambiguità dell'attribuzione di certi reperti rinvia alla difficoltà di ritrovare certezze nella realtà. La rosa purpurea. E la terza parte della Rosa Purpurea, dopo avervi raccontato l'ultimo nostro viaggio sui set estivi dei film che si stanno creando sotto i nostri occhi per la prossima stagione con Chiara Pizzimenti, facciamo invece l'ultimo pezzo di viaggio, l'ultimo percorso, l'ultima tranche di questo viaggio attraverso il meglio della stagione cinematografica 2009-2010, nella quale abbiamo colto, indipendentemente dal loro incasso, non è una classifica legata all'andamento commerciale, quello che secondo noi rimarrà un po' di questa stagione cinematografica. 12 film, uno al mese, gli ultimi tre in questa puntata. Il nostro viaggio è cronologico e ci troviamo in primavera. Possiamo dire che si è trattato di una primavera italiana. Il cinema italiano è esploso davvero in primavera, a marzo, ad aprile. Sono usciti i film che più hanno convinto, che sono arrivati poi fino alla nostra presenza a Cannes con La nostra vita. Ma il film italiano dell'anno per molti, anche per i premi che ha ricevuto, è senza dubbio Le mine vaganti di Ferzan Özpetek. E allora noi andiamo alla puntata del 13 marzo. Barbara Righini l'aveva raccontato così. Tommaso, hai visto che bella sorpresa? I tuoi amici di Roma. Volevamo solo farti un saluto. Loro stavano per andare al mare e poi ci hanno detto di salire. Avete fatto una sorpresona proprio. Ciao, bello. Ciao. Il poco entusiasmo di Tommaso, interpretato da Riccardo Scamarcio, rivela tutto il dramma interiore del personaggio. Giovane rampollo di una famiglia di imprenditori di Lecce, nasconde alcuni segreti. È omosessuale e vuole fare lo scrittore. L'arrivo degli amici da Roma potrebbe metterlo nei guai. Tommaso ha vissuto nella capitale a lungo e di ritorno nella città d'origine è deciso a fare outing. Peccato che è anticipato dal fratello, omosessuale anche lui. La rivelazione di Antonio getterà nello sconforto e nella vergogna tutta la famiglia, in primis il padre, un uomo all'antica, incastrato nelle convenzioni sociali. Era tutto per me, tutto. E gli dovevano piacere le femmine come piacciono a me, hai capito? In una situazione tanto complicata e improvvisa, Tommaso troverà un inatteso sostegno da parte di una nuova amica, Alba, nonostante il primo incontro non lasciasse ben sperare. Oh, Tommaso, vieni. Ti presento Alba Brunetti, la figlia del commendatore. La nostra nuova socia in affari. Ciao. Ciao, piacere. Alba, Tommaso, giocavamo insieme da piccoli, non te la ricordi? Non me la ricordo, scusa, mi dispiace. No, non ti dispiacere, nemmeno io mi ricordo di te. Meno pretenzioso dei precedenti e più equilibrato, Ferzan Özpetek, con Mine vaganti, ha messo da parte il suo ego al servizio di una regia più sincera. Molti i temi affrontati, riflette sulle infelicità che spesso si nascondono dietro famiglie apparentemente serene, sulla necessità di compiere le proprie scelte con il rischio di sbagliare e su quanto in Italia sia ancora difficile essere accettati per quello che si è in società. Certo, Özpetek è sempre Özpetek e con furbizia cerca la commozione dello spettatore. Ma in Mine vaganti lascia molto più spazio ai suoi attori, facendone risaltare la bravura Ennio Fantastichini e Ilaria Occhini su tutti. Questo era il racconto di Barbara Righini di Mine Vaganti, Le Mine Vaganti di Ferzan Özpetek, che ha incassato 8.270.000 euro, insomma, per un film che non è strettamente la commedia natalizia, piuttosto che il film così per ridere e basta. È davvero un incasso monster per questa stagione, che colloca Le Mine Vaganti al 20° posto della classifica totale degli incassi della stagione 2009-2010. Non è invece nelle primissime posizioni, ma come dicevo, questo poco importa per quanto riguarda questa nostra riscoperta dei migliori film dell'anno. Io sono l'amore di Luca Guadagnino, un film che ha avuto vicissitudini produttive e soprattutto distributive, film che era stato presentato a Venezia lo scorso anno, che è uscito nella prima parte comunque del 2010, film di grandissimo impianto ed eleganza viscontiana, una regia proprio che racconta questa famiglia di industriali del tessile, la classica famiglia industriale italiana, con tutti i suoi sotterfugi, tutti i retroscena in maniera straordinaria, con un cast di attori strepitosi capitanato da Tilda Swinton. Io sono l'amore di Luca Guadagnino, l'avevamo raccontato così nella puntata del 20 marzo. Io sono l'amore. Il film è diretto da Luca Guadagnino, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Luca. Buonasera. Ben trovato qui al nostro programma con il tuo film Io sono l'amore, che finalmente, dobbiamo dirlo, 6 mesi dopo essere stato visto per la prima volta a Venezia, trova la via della sala. Io sono l'amore, come possiamo descriverla, Guadagnino, questa storia, che più che una storia è un affresco, no? L'affresco di una famiglia alto borghese di Milano, immersa in una città che appare bellissima tra l'altro in questo film, e che però, come dire, ha le sue belle schegge impazzite. Possiamo parlare in questo senso? Mi sembra una bellissima descrizione. Diciamo che Io sono l'amore è una storia classica e universale di liberazione dai brigli di una convenzione, dalle briglie di una convenzione, verso il salto nel vuoto di una passione più grande della convenzione. La nostra idea è sempre stata quella di restituire voce al linguaggio del cinema contro, ma neanche contro, diciamo oltre un cinema ormai televisuale. Ecco, la storia gira, cioè le schegge impazziscono, per usare la terminologia di prima, dopo che il capostipite di questa famiglia, che è interpretato da uno straordinario Ferzetti in un ruolo veramente tutto pieno, no? pieno anche di sicurezze e della sua generazione in questo senso, appunto, dicevo, c'è un passaggio di consegne di questa azienda tessile di famiglia. Non viene premiato, come ci si potrebbe aspettare, solamente il primogenito, ma anche un nipote. Questo comincerà a avere il suo peso. Sentiamo un passaggio del film. Amici cari, io non voglio morire e non morirò finché l'azienda proseguirà nello spirito con cui l'ho creata. L'azienda è nata ricchi e ricchi rimarrà per sempre. È arrivato il momento di ritirarmi, di designare il mio successore. Mio figlio non ha mai deluso le mie aspettative. Dunque, ho deciso di lasciare tutto nelle mani tue, Tancredi. Ed in quelle di tuo figlio Edoardo. Ci vorranno 2 uomini per sostituire me. Se la cava con una battuta il vecchio Recchi. Luca, cosa succede nel momento in cui questa consegna arriva sul piatto di questa tavolata? La cucina è un elemento molto presente nel tuo film, a scompaginare un po' forse quelle che erano le aspettative. Ecco, cosa succede nei tuoi personaggi? Succede che devono confrontarsi con la forza della negazione dei loro stessi sentimenti, e chi sarà in grado di confrontarsi con essi in maniera, diciamo, laica, in maniera limpida, saprà anche, come ho detto prima, spiccare il volo, e purtroppo ci sarà chi cade. Così Luca Guadagnino alla Rosa Purpurea del 20 marzo. Una ventina di giorni dopo, il 10 aprile, era la volta di un film che a mio modo di vedere è stata la vera grande sorpresa della stagione cinematografica italiana 2009-2010, soprattutto se mettiamo in relazione l'enorme successo avuto con l'esiguo budget a disposizione per la produzione. Un film davvero low budget, per un incasso che è andato oltre le più rosee previsioni di tutti, a partire dal suo regista Rocco Papaleo. Stiamo parlando di Basilicata Coast to Coast, un road movie dell'Italia del Sud davvero divertentissimo, che ha davvero sfondato. Lo abbiamo trovato nei multiplex, lo abbiamo trovato in ogni tipo di cinema, e ha avuto un incasso globale di quasi 3 milioni di euro, che per un film di questa proporzione distributiva e produttiva davvero è un incasso monster. 59esimo posto per questa piccola produzione indipendente. Noi avevamo incontrato e ospitato Rocco Papaleo nella puntata del 10 aprile. Sono troppo contento che ci hanno preso, perché non è un festival amatoriale, è proprio a livello nazionale. Ho capito, il festival di Scanzano, Nico Abramo, concentrati, che potevo andare a lavorare. Io mi chiamo Nicola Palmieri. Attraversare la Basilicata da una costa all'altra, ecco l'idea. Invece di andare a Scanzano lo stesso giorno del festival, partiamo 10 giorni prima. A piedi ce la dobbiamo fare. Agosto, moglie mia, non ti conosco. Dico, siamo a settembre. Infatti sei incazzato. Rocco Papaleo in collegamento con noi. Ciao Rocco. Ciao, ciao. Grazie di essere stato qui con noi. I nostri ascoltatori sono reduci, insomma, dall'ascolto di questa clip nella quale Rocco Papaleo dà un po' il meglio di sé in questo Basilicata Coast to Coast. È un film molto divertente che noi ci sentiamo di consigliare, che abbiamo, come dire, sponsorizzato col cuore dopo averlo visto. Un road movie musicale, Rocco. Come ti è venuta in mente sta storia? Passare la Basilicata dal Tirreno allo Ionio. Beh, diciamo che ci sono tante suggestioni, no, che mi hanno accompagnato in questi anni e che probabilmente hanno concorso un po' alla formazione di questa idea. Ti dico, per dire, mio zio negli anni 60 ha fatto un viaggio spiritoso, quantomeno presero la prima 600 che circolava dalle nostre parti, andarono a Parigi, misero una tenda a Parigi, dormirono la notte e se ne tornarono di nuovo al mio paese. Così, una cosa quasi apparentemente senza senso, e così, giusto per il gusto di viaggiare. Ma oltre questa cosa, c'era proprio questa voglia di un viaggio un po' ritroso, no? Anche nella mia terra, ma sulla terra in generale, c'è una terra un po' da calpestare coi piedi, e il viaggio poi in fondo contiene sempre questa metafora del percorso esistenziale. E così alla fine, tra una cosa e l'altra, si è formata questa idea un po' stravagante che mi è piaciuto molto. Così trasporre cinematograficamente, non ho avuto la possibilità e sono molto felice del risultato. E io voglio far ascoltare un'altra clip del film, un momento in cui appunto i ragazzi, diciamo così, che sono tra l'altro fior di attori, Alessandro Gassman, Paolo Briguglia, Max Gazzè, oltre a Rocco Papaleo, si esibiscono in una doccia all'aperto, en plein air, in tutta la loro nudità. Ascoltiamo. Facciamo veloci che stasera c'ho da fare. Scusa, ma ti sapete di fretta, vai, se permetti, vedete che dovresti seguire i nostri ritmi, siamo noi che ci mettiamo la faccia. E non solo quella, mi pare. Dai, state così, vi riprendo solo sopra. Viene bene? Ma che stiamo scherzando? Chiaro, è carino, è più vivo. Allora fate come cazzo vi pare, guarda. E ricordatevi che malgrado le apparenze, io sono una persona seria! Vaffanculo. E questo era il Basilicata Coast to Coast, il film con il quale si chiude questa nostra cavalcata attraverso le stagioni del cinema italiano fra l'agosto del 2009 e la fine del luglio del 2010. Chissà che questi 12 film non abbiano così suscitato qualche nuova emozione, magari la voglia di andarli a recuperare appunto in home video. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte del nostro programma. Abbiamo finito la nostra carrellata sui film più esaltanti, più belli, più sorprendenti della stagione 2009-2010 con il cinema italiano, e adesso invece andiamo oltreoceano a dare una sbirciata a quello che guardano i nostri amici cinefili americani. Come sempre lo facciamo con la nostra Michaela Bellisari. Oggi abbiamo scelto un film, una commedia romantica che farà sognare chi ama ovviamente sognare ad occhi aperti davanti a questo tipo di film. Si intitola Cairo Time, come la capitale egiziana. Un film che vede nel cast Patricia Clarkson e Alexander Siddig. Tra l'altro Patricia Clarkson, volto ormai noto di un cinema d'autore americano, da Good Night and Good Luck con George Clooney a due film di Woody Allen. Insomma, sicuramente un'importante presenza. Noi chiediamo, come sempre, il racconto puntuale di Cairo Time alla nostra Michaela Bellisario. Sì, ciao Franco, grande storia d'amore, Cairo Time, di quelle da sospirone finale, lacrime asciugate con il fazzoletto. La storia è questa: una ricca donna americana raggiunge il marito imprenditore in Egitto, ma appena arrivata la doccia fredda, il consorte è stato bloccato per affari a Gaza e quindi non si possono vedere. Così alla donna non resta che aspettarlo al Cairo. In questo passo del trailer l'incontro con la sua guida interprete che le dà la notizia. Reason for visit? I'm here to see my husband. Miss Juliet, I am Tarek. Unfortunately, your husband has been delayed in Gaza. If there is anything you should need, please. Oh, Mark, where are you? Ecco, la moglie di questo ricco imprenditore resta al Cairo e naturalmente passa le giornate in giro con la guida, insomma non può certo stare rinchiusa in albergo. I due finiscono per conoscersi, apprezzarsi e scoppia in attesa una passione travolgente. È l'incontro tra due culture, due mondi differenti. Non vi svegliamo il finale per farvelo gustare, perché la domanda è: tornerà dal marito o resterà per sempre con l'amante? Quindi vi facciamo sentire questo passo del trailer in cui i due protagonisti di ritorno da una festa sono in treno e capiscono che la vita è quello che stanno vivendo realmente in quel momento. Lui le chiede di restare e lei gli risponde che sì, forse potrebbe restare. Sentiamo. It seems like you're getting used to the way of life here. Maybe I'll stay. Stay. Here we believe in fate. What is your fate, Tom? E abbiamo scoperto che anche la nostra Michaela Bellisario è davvero una sentimentale. Mi è sembrato di vederti identificare con la protagonista di Cairo Time. Scherziamo ovviamente, grazie Michaela. Appuntamento a questo punto dopo il Festival di Venezia per ricominciare il flusso di novità dagli Stati Uniti in Trailer USA. Ciao Franco, alla prossima settimana. E a questo punto invece andiamo a incontrare un'altra colonna della nostra trasmissione, Claudio Pofi, che è già in collegamento con noi per raccontarci le novità in on video. Ciao Claudio. Ciao Franco, eccoci pronti. Eccoci qui. Allora, anche oggi tre film selezionati, in attesa ovviamente che torni il nostro DVD Game, che è andato in ferie ma ci ha raccontato che sta bene e tornerà presto, quindi non disperate, ricordatevi sempre che noi abbiamo fatto una piccola pausa adesso durante agosto, ma da settembre torniamo più forti che mai a regalarvi DVD e Blu-ray tutte le settimane. Nel frattempo invece ve li consigliamo e cominciamo con un film di epoca recente, Matt Damon protagonista di The Green Zone. Questo paese è una polveriera a causa delle divisioni etniche. Eliminato Saddam, soltanto l'esercito può tenerlo unito. Non convincereste gli americani, l'esercito iracheno l'abbiamo battuto. Certo, solo che è ancora là fuori in armi che cerca un posto nel nuovo Iraq. Allora dovrà aspettare a lungo. Non tutti erano per Saddam. Ci sono ufficiali di grande valore, basta solo motivarli. Senti Marty, capiamoci bene. Abbiamo speso troppi soldi e perso troppe vite americane per poter mettere al potere oggi un generale di simpatie basse. Hai un'idea di quello succede oggi al di fuori della Green Zone? C'è il caos. Niente polizia, regolamenti di conti ogni notte. Sì. La gente si chiede perché non interveniamo. La democrazia non è semplice. La democrazia non è semplice. Alla fine del secondo conflitto in Iraq, dopo la conquista della capitale Baghdad, l'ufficiale dell'esercito americano Roy Miller si trova a capo di una delle squadre alla caccia dei siti di stoccaggio di armi di distruzione di massa. le stesse che hanno scatenato l'intervento americano. Incapace di trovare alcunché, Miller smette di seguire le indicazioni dei servizi segreti per trovare da solo un ex generale di Saddam, uno dei pochi a conoscere la verità sulle armi. La coppia Paul Greengrass e Matt Damon torna insieme dopo uno dei capitoli dell'agente segreto Jason Bourne con un eccellente action thriller che dice la sua sui veri motivi che spinsero l'intervento americano in Iraq. Da Medusa, realizzazione di tutto rispetto per il DVD, disponibile tra l'altro in versione con custodia in metallo, il Blu-ray è la scelta migliore per ritrovare tutta la grafica di un film teso e adrenalino. Doppia traccia di TS ad alta risoluzione, tra gli extra segnalo il commento del regista assieme a Matt Damon per tutto il film e quattro approfondimenti sulla lavorazione. E la musica che state sentendo è quella di un documentario, perché questo è il film che vogliamo raccontarvi e consigliarvi ora in uscita e non video, un documentario che ha come protagonista uno dei protagonisti assoluti, scusate il gioco di parole, del cinema degli ultimi 40 anni. Si tratta di Wim Wenders, a cui è stato dedicato un documentario, appunto Wim Wenders Story. Claudio. Sì, il DVD di Replay on Video ci racconta i primi anni dell'attività registica di Wenders attraverso i ricordi personali, i rari filmati amatoriali, il racconto dei primi anni della carriera, dagli esperimenti con la prima cinepresa, la fuga dalla probabile carriera di medico e poi il cinema con successi e fallimenti, sino ad aggiungere ai riconoscimenti internazionali per la trilogia della strada. Ottima la qualità del DVD, l'opera di 96 minuti ha una sola traccia audio monofonica in tedesco, comunque dignitosa la resa, con sottotitoli in italiano e come extra c'è il trailer. E dal cinema d'autore, anzi dall'autore raccontato dal cinema, noi passiamo e chiudiamo con la grande azione Fuori controllo. Allora vuoi dirmi qualcosa? È una questione che non la riguarda e per di più è al di fuori della sua giurisdizione. Se non parli, dirò al Grob e all'Herald che mia figlia è venuta a parlarti della Northmore. Ma che ti sei scordato di dirle che sei il legale dell'azienda? A quel punto dovrai spiegare perché il vero obiettivo del killer era mia figlia e non io. E qui che vuoi arrivare? Quali prove crede di avere? Falsificherò un diario, che cazzo ne so. Basta metterti nella merda. Senti, stronzo, la polizia non c'entra. Non sono qui a fare giustizia, arrestarti o cazzate varie, ma per sapere quello che devo sapere, non importa come. Thomas Craven è un detective della omicidi di Boston. Un giorno la figlia Emma di 24 anni viene uccisa davanti a casa mentre si trova al suo fianco. Si indaga sui nemici dell'uomo, ma Thomas inizia a seguire una pista per suo conto, realizzando la terribile scoperta che la figlia aveva fatto nei confronti di una multinazionale, consigliandosi purtroppo con le persone sbagliate. Thriller con un redivivo Mel Gibson, tornato finalmente davanti alla cinepresa per l'adattamento cinematografico di una miniserie della BBC del 1985, diretta dallo stesso regista Martin Campbell. Da 01 il DVD di notevole qualità, meglio ancora il Blu-ray, la traccia audio in questo caso è DTS ad alta risoluzione sia in italiano che in inglese, ma la sorpresa qua è notevole perché l'italiano beneficia anche di un'altra traccia multicanale con qualità CD. Tra gli extra segnalo approfondimenti sulla sceneggiatura con l'attore Mel Gibson, la regia e la fotografia oltre alle scene tagliate. E può essere una delle ultime occasioni di vedere Mel Gibson in un film, perché come stanno andando le sue cose personali e i suoi conti con la giustizia, insomma sembra che debba riparare ormai in Australia, chissà quando rivedremo Mel Gibson al cinema. Battute a parte, grazie Claudio Poffi per averci raccontato le novità in un video, appuntamento la prossima settimana. A presto, a risentirci. Chiudiamo qui la nostra puntata, l'appuntamento va sabato prossimo alle 18, domenica prossima alle 15 per chi ci ascolta in replica, sarà il weekend del grande ritorno, del grande affollamento cinematografico pre-veneziano e poi dopo via con lo scivolo, 12 film in uscita la prossima settimana, avremo ovviamente tempo per parlarne. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.